giorni, però avete avuto una qualche idea, ecco, di quante persone, su quante persone questa rete? Noi non solo siamo riusciti a individuare e colpire parecchie persone, ma noi ci siamo mossi sulla base di bollettini che venivano pubblicati e siamo partiti a sostenere un'associazione avendo in mano soltanto una pubblicistica. Però l'azione è stata così capillare ed è stata così diffusa l'azione investigativa che ha determinato, che ha avuto risultati positivi, perché li ha messi nella condizione di non potersi più muovere anche soltanto essendo meramente indagati. Abbiamo chiesto qualche arresto dal 2007 in poi, io non ricordo, almeno a Bologna, che ci siano stati ulteriori episodi, se non episodi che poi erano riconducibili a persone che cercavano di far credere che si trattava di anarco-insurrezionalisti e che si servivano di questi sistemi per creare confusione, ma erano soltanto dei millantatori. Su quante persone, grosso modo, ecco, questa organizzazione poteva a vario modo contare, a seconda ma anche... Ma noi ne abbiamo individuate circa una cinquantina che abbiamo in vari tempi, in vari momenti indagato. Certamente che siamo riusciti a dare un colpo tale che poi sono scomparsi dalla circolazione. Durante il 2004 al 2007, in quel periodo, avevano una diffusione così importante e capillare da suscitare l'interesse di tutte le procure d'Europa, il che successivamente è un pericolo che è scomparso completamente. Cioè, non ha assunto mai più la dimensione ed anche questi ultimi fatti mi sembrano episodi isolati e non mi sembra che si ritorni a quel pericoloso fenomeno che in quel momento si stava diffondendo in un modo veramente preoccupante a livello europeo. Quindi secondo lei, procuratore, anche per l'idea che ovviamente stando al di fuori lei si è fatto e per la sua esperienza nelle indagini sul mondo anarchico, l'episodio della bomba non esplosa all'Università Bocconi di Milano e quest'altro ordigno, quest'altra lettera che invece è esplosa, arrivata poco prima delle elezioni alla Lega, crede che possano essere degli episodi, diciamo, isolati di qualcuno che cerca di accreditarsi presso la Federazione Anarchica, come diceva lei prima? A mio avviso sì, non per svalutare il fatto, perché anzi potrebbe essere un segnale di allarme che può determinare, ma certamente che questi fatti hanno avuto molta importanza, perché si sono verificati in un certo momento vicino alle elezioni e in una situazione del genere, ma allora invece erano talmente ripetuti, contestuali, con azioni fatte sempre, si presumeva, dagli stessi soggetti che si muovevano in tutta Europa, che avevano caratteristiche molto più pericolose di quanto non appaia così da ormai, da uno che sta fuori. Il gruppo che avevate a vario titolo individuato voi era sostanzialmente a Bologna, in quale altre città e poi ancora che tipo di persone non operava, erano? Le ho detto che non operavano, venivano a Bologna, erano di Bologna e si muovevano per andare altrove e operavano soprattutto a Bologna, Milano, Genova, Roma più che a Roma, Roma a Viterbo ci sono stati degli episodi, in Sardegna, dove però assumevano un carattere diverso perché erano filomarxisti e quindi avevano un colore accentuatamente diverso rispetto a tutti gli altri e avevano una diffusione per cui i fatti, gli episodi non avvenivano soltanto in una città, non era un solo episodio, ma contemporaneamente in molte città e aventi tutte le stesse caratteristiche e soltanto chi si muoveva e andava di volta in volta sui posti erano soggetti i quali erano quelli che dovevano confezionare, chi confezionava il libro, chi confezionava la bomba, dovevano esserci degli artificieri, eccetera, e su questa base noi ci eravamo mossi e avevamo individuato soggetti che erano conosciuti comunque dagli organi di polizia. Qualcuno l'abbiamo arrestato e poi tutti coloro che stavano vicini si sono sentiti in allarme e almeno per quanto riguarda Bologna noi non abbiamo avuto più episodi del genere, il che ci ha fatto capire che avevamo inciso notevolmente su di esso. Una appunto di queste difficoltà per quanto riguarda il movimento anarchico è anche il fatto che sfuggono appunto alle definizioni e sfuggono anche alle conoscenze di alcuni elementi che casomai invece caratterizzano e connotano alcuni dei vari gruppi eversivi di vario tipo nella storia che c'è stata anche del terrorismo italiano. Quello che volevo chiederle è questo: questo gruppo che ha vario titolo avevate in qualche modo individuato, che età, che tipo di storie, che tipo di profili avevano alle loro spalle? Guardi, erano tutti giovani, avevano un profilo di passato di carattere sovversivo, erano gente che però non era legata a nessun carro politico, erano anarchici, si rifacevano agli anarchici storici, ma li criticavano perché non avevano combinato nulla. Loro poi però avevano anche un'altra caratteristica. È evidente che quando un movimento, un'azione viene fatta da un movimento terroristico che ammazza la gente, per cui ci sono omicidi, è evidente la reazione da parte di tutti è molto più efficace, perché c'è la polizia, gli investigatori che si buttano a corpo morto e hanno lo strumento omicidio, oppure lesioni gravissime o qualcosa che possa che può far agire e può essere utilizzata a fini processuali e di giustizia. In questi casi, la maggior parte dei casi erano lesioni massimo la possibilità di lesioni gravi per una mano che poteva essere colpita, e cioè avevano anche degli effetti di gran lunga meno terrorizzanti, possiamo dire, non gravi, gravissimi. Perché insomma, certo, mi ricordo, però, sicuramente di impatto diverso rispetto ad altri tipi di attentati. Procuratore, rispetto. E cioè intimidatori più che altro e che danno dei segnali terribili, ma che hanno un effetto di gran lunga maggiore, senza che il magistrato abbia lo strumento adatto per reprimerli, perché se la lesione è gravissima o c'è la morte o c'è il tentato omicidio, allora noi abbiamo il reato, anche se cade l'associazione sovversiva, tutto va a posto, ma in questo caso se non c'è tutto questo e la lesione è una lesione lieve, come accadeva spesso e come è accaduto per esempio al presidente Prodi e alla moglie di Prodi, no? Che non hanno, certo, grazie a Dio, non hanno avuto nessuna risultato, insomma, effetto gravemente negativo. A questo punto si riesce a colpire l'associazione per gli atti sovversivi in sé, il che diventa difficile proprio per gli anarchici. Nella seconda parte dell'intervista Enrico De Nicola, l'ex procuratore capo di Bologna, ripercorrerà tra l'altro la galassia degli anarchici pure negli altri paesi europei, una mappa ricostruita negli incontri all'AIA ad Eurojust. Storielle. Storiacce. Tendenzialmente giovani, tendenzialmente ispirati ai vecchi anarchici, anche se a loro non risparmiano critiche, sparsi nelle varie città, ma pronti a richiamarsi anche attraverso la rete e a ritrovarsi là dove serve. Del Pulviscolo della Federazione Anarchica Informale traccia questo identikit Enrico De Nicola, già capo della Procura di Bologna, ai tempi in cui dal 2002 in poi si occuparono della stagione dei pacchi bomba in Europa degli anarchici. Per questo ad Eurojust ebbero riunioni anche con altri magistrati europei. Non sono molti, ma possono essere pericolosi, analizza De Nicola, ora che gli anarchici sono tornati a farsi sentire con la lettera esplosiva inviata alla sede milanese della Lega. Procuratore, e da un punto di vista del messaggio, cioè abbiamo visto che sono molto attenti alla scelta all'epoca dei libri in cui inserire gli esplosivi, molto. Adesso anche in questa lettera con dei rimandi ben precisi c'è un mittente che poi rimanda ad un elenco di vittime del nazismo, cioè hanno un rimando di simbologie e di nomi anche loro di persone del passato. Prima, soprattutto agli anarchici storici. Loro è soprattutto un tentativo di mettere una firma richiamandosi al passato degli anarchici storici. Certamente, ma a questi anarchici. Ecco, lei teme che in questo pulviscolo di vario tipo possa esserci un rischio che qualche gruppo possa progettare di fare un salto di qualità, diciamo così, quindi compiere un'azione più pesante? Proprio per le loro caratteristiche, gli anarchici, se dovessero fare un salto di qualità, come stavano facendo quelli della Sardegna, assumerebbero delle caratteristiche associative tali da prestare il fianco all'attività investigativa molto più di quanto avvenga ora. Se loro rimangono anarchici, è difficile prenderli sulla base del mezzo associazione sovversiva o associazione per finalità di terrorismo e deviazione, che è lo strumento che noi usiamo nei confronti di questi fenomeni criminali. Se invece diventano e si strutturano, allora potranno essere sì più pericolosi dal punto di vista degli effetti e dell'espansione del fenomeno, però potranno essere molto ben attaccati da noi. È evidente che sono più aggredibili, sono più esposti. Questo denota però anche una conoscenza e manovrano bene anche con i limiti e con le caratteristiche della giustizia italiana e delle leggi italiane, per fare in modo di riuscire a sfuggire anche a delle contestazioni appunto che possono essere più gravi e più ampie, evidente, come quelle evidente. Associative. Loro intanto diventano materiale difficile da colpire, soggetti difficili da colpire, in quanto agiscono come gli anarchici, cioè che non vogliono essere strutturati, non vogliono capi, strutture, associazioni, eccetera. Mentre invece, mancando tutto questo, e non accettano nemmeno nuclei di persone con un capo che comanda, anche piccoli, non accettando questo, rimangono, non si espongono come si esporrebbero se avessero la struttura, perché allora basterebbe che uno parlasse per ottenere i risultati. Qui, anche se parla uno, non sa quello che fanno gli altri, quando si riuniscono, come prendono. Sono decisioni che prendono all'ultimo momento e nessuno è obbligato a partecipare. Qual è il messaggio che loro volta per volta mandano con i vari attentati di varia entità? Se rimangono anarchici, il loro messaggio è l'anarchia, e il vecchio messaggio anarchico. Se invece non usano questo sistema per esplicare un'attività politica diretta ad un'azione strutturata, e allora non sono più anarchici. Questo vuol dire che non tengono affatto conto né del momento politico storico. Se fossi io l'investigatore oggi, il primo tema che mi porrei è questo. Sono anarchici di quel periodo e usano gli stessi sistemi e utilizzano lo stesso strumento, sia pure per obiettivi che di volta in volta possono modificare, oppure si stanno strutturando per, e in tal modo possono da una parte diventare più pericolosi estendere la loro azione, ma dall'altra essere colpiti più facilmente attraverso le norme che noi abbiamo e che sono gli strumenti che usiamo nei casi normali tra virgolette di eversione di terrorismo? Questa è la domanda che mi farei e l'analisi che io farei se fossi oggi ancora in servizio e dovessi investigare su questo fenomeno. Visto che le vostre indagini aveva avuto anche tanti contatti anche internazionali, nel resto degli altri paesi europei, quali sono i paesi dove c'è una presenza anarchica altrettanto radicata? Quali erano gli altri paesi interessati alle vostre indagini? Guardi, per quanto ricordi, io posso dire la Spagna soprattutto, il Belgio, ma erano anche in Francia, in Germania, tutti erano rappresentati. Addirittura c'erano esponenti di Scotland Yard della Gran Bretagna, lì che ci trovammo di fronte al fatto che mentre noi eravamo tutti magistrati, quelli di Scotland Yard erano la polizia dappertutto. Quindi è un po' una realtà presente ovunque, casomai più forte laddove ci sono anche gruppi separatisti, mi sembra di intuire. Brava, perché c'è il discorso delle carceri che è molto importante per loro e contro il quale si muovono. E secondo lei potrebbe essere... Era importante, adesso non so, loro hanno hanno degli obiettivi comuni, tutti questi soggetti, piuttosto che strumenti comuni. Certo, anche quelli contro delle infrastrutture, come è stato ad esempio contro alcuni tralicci dei treni. Tutte le infrastrutture, ma soprattutto tutte le infrastrutture destinate a limitare la libertà di fare quello che si vuole. Quindi soprattutto il trasporto per questo. E soprattutto le carceri per questo. Vi ricordo che questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, le trovate sul sito radio24.it nella pagina appunto di Storiacce. Ciao, scrivetemi.